Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City, quest'oggi andiamo a Genova, all'IT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, per parlare di BlindPad, il primo prototipo di un dispositivo che potrà migliorare la qualità di vita delle persone non vedenti e ipovedenti. Parliamo di una tavoletta tattile che permette applicazioni nel campo, come vedremo, dell'educazione, del gioco, dell'orientamento, importantissimo, nello spazio. Ma si tratta, attenzione, perché spesso da questo mondo della disabilità arrivano poi tecnologie che si diffondono fra tutti, si tratta anche di uno dei primi esempi applicati di interfaccia tattile, ed è un canale di comunicazione, quello tattile, che oggi è ancora libero, mentre vista e udito sono sovraccarichi ormai di informazioni, e su cui infatti la ricerca si sta anche molto esercitando. Ne parliamo con Luca Braida, ricercatore dell'IT e team leader del gruppo di ricerca che ha sviluppato il progetto BlindPad. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori. Questo è un progetto finanziato nell'ambito del settimo programma quadro dall'Unione Europea. Intanto le chiedo di descriverci prima di tutto l'oggetto al quale siete arrivati e attorno a cui un po' ruota poi tutto il sistema. Sì, l'oggetto, che si chiama BlindPad, è una tavoletta tattile, quindi è un oggetto che ha le dimensioni di un tablet. Però invece di avere uno schermo piatto, ha una griglia di circa 200 piedini in plastica, che noi chiamiamo Taxel. È un nome un po' strano, ma è in pratica l'equivalente tattile del Pixel. E questi piedini si sollevano e si abbassano, quindi bisogna immaginare una griglia di questi piedini, ce ne sono circa 200 che si alzano e si abbassano, e immaginiamo di toccarla a occhi chiusi, e quindi questi piedini formano dei rilievi, e i rilievi che ci formano danno un'informazione tattile. Allora, il gioco qual è? Quello di riuscire a tradurre delle informazioni visive in informazioni tattili, quindi di tradurre l'informazione da un'immagine che si vede con gli occhi a un'immagine che si tocca con le dita. Ecco, e qui ci sono, diciamo, delle applicazioni poi molto concrete, no, di questo gioco di specchi, insomma, che sono nel campo del gioco, nel campo dell'educazione, nel campo anche, chiamiamolo, della navigazione, cioè appunto dell'orientamento nello spazio. E questi tre livelli in realtà si tengono, forse possiamo partire dal gioco, che è l'inizio di tutto. Sì, esattamente. Cioè, la scienza dimostra che l'apprendimento con la motivazione funziona molto meglio dell'apprendimento che si fa in maniera, diciamo, troppo seria. Beh, infatti, chiunque ha dei figli sa che i bambini imparano così, giocando, non è che c'è tanto da girarci intorno, insomma, al di là della scienza, ecco. Esatto. E in pratica i serious games sono quelli che in inglese si definiscono come i giochi che, oltre a divertire, insegnano. Quindi, partendo dal presupposto che i non vedenti non riescono a usare l'informazione visiva, e se immaginiamo di avere un tablet davanti senza la vista, è inutilizzabile. Un tablet, anche uno smartphone, certo, qualsiasi strumento con uno schermo piatto, ecco che il fatto di creare un rilievo è cruciale. Quindi il gioco qual è? Il gioco è riuscire a formare delle immagini nella mente di informazioni fondamentali. Possono essere la linea, possono essere informazioni geometriche come il cerchio, il quadrato. Cioè, immaginiamoci tutta quanta la matematica che impariamo a scuola che da visiva diventa tattile, e quindi diventa fruibile da chi la vista non ce l'ha. E naturalmente con la stessa metodologia si possono rappresentare su questa tavoletta tattile anche gli ambienti in cui si muove la persona. Esattamente, cioè l'informazione elementare come un cerchio o un quadrato può rappresentare, oltre che una figura astratta, anche ad esempio una casa vista dall'alto. Certo, oppure un quadrato vuoto al centro, il perimetro della stanza all'interno della quale ti trovi, dove magari ci può essere anche un tavolo e magari ci sono delle entrate e delle uscite da questa stanza. Tutto questo viene rappresentato, no? Esattamente, la forma della stanza è cruciale, perché una persona, una volta che la conosce, può da un piccolo particolare della stanza che tocca derivare poi tutta quanta l'informazione a cui non ha accesso. Quindi è un po' come noi che usiamo Google Maps o qualsiasi altra cartina per orientarci e beneficiamo di questa informazione. Chi è non vedente, l'unica maniera che ha per certo mappe mentali è quella di percepirle con i sensi disponibili, come il tatto. E qui comunque torniamo al gioco, perché la persona ipovedente insomma impara a utilizzare questo strumento giocando, perché l'addestramento è qualcosa di faticoso e funziona molto meglio appunto se lo si propone sotto forma di gioco. Ecco, però non vorrei che passasse il messaggio sbagliato: in questo momento non è che voi stiate proponendo un sistema, come dire, un Google Map per persone cieche. In realtà lo scopo attuale di questa tecnologia, se ho ben capito, è quella di aiutare i ciechi a imparare a farsi delle immagini mentali dell'ambiente in un modo che a loro non verrebbe naturale. È proprio così. Oggi diciamo la riabilitazione dei non vedenti è efficace, però alcune cose prendono tanto tempo. Cioè, il fatto di spiegare a una persona che non ci vede come orientarsi in un quartiere con due isolati richiede un tempo di apprendimento di circa 2 anni, solamente per imparare 2 isolati. Ora, il fatto di riuscire invece a veicolare questa informazione come se fosse una mappa vista dall'alto, con i 2 rettangoli di cui parlavamo prima, che erano i 2 palazzi, e il fatto stesso di capire come sono messi gli uni rispetto agli altri, allena il cervello a costruirsi delle immagini mentali. Questa cosa è uno strumento molto potente, si dimostra che la capacità di apprendere come costruire questi concetti spaziali nella mente aiuta tantissimo poi dopo, perché quando poi uno va nell'ambiente reale ha già in mente come è fatto il quartiere. Quindi se la persona non vedente dovesse ad esempio incappare in un ostacolo, avendo la mappa in testa può ad esempio prendere una decisione su come aggirarlo. Certo. Esattamente, questa cosa oggi non è possibile neanche con gli strumenti di ultima generazione. Voglio dire, il GPS ha una precisione limitata, quindi noi il nostro approccio è diverso. Invece di fornire uno strumento che decodifica l'ambiente, insegna una rappresentazione stilizzata dell'ambiente al cervello della persona che usa Blindpad. Dunque Braida, abbiamo iniziato anche riflettendo sul fatto che il canale tattile è un canale sensoriale libero, mentre oggi gli altri canali, soprattutto vista e udito, sono semmai sovraccarichi di informazioni. E allora vorrei capire se tecnologie di interfaccia tattile potrebbero diffondersi in futuro anche al di fuori di una fascia di popolazione che ha necessità di queste tecnologie, e per cosa eventualmente? Assolutamente sì, il canale tattile è molto interessante, il meno studiato, e si sta studiando sistemi per dare informazione tattile in sistemi ad esempio di realtà virtuale, utili quindi sia nel gioco sia nel lavoro, nell'apprendimento di ambienti ignoti, nella chirurgia virtuale. Può essere anche utile in situazioni dove l'informazione tattile viene data quando gli occhi sono già occupati, per esempio un pilota di aereo, un conducente di un mezzo pubblico che deve tenere lo sguardo impegnato, ecco che il tatto può dare quelle informazioni che evitano alla persona di distrarsi. Grazie, grazie Luca Braida. Grazie a voi, grazie a tutti. Bene, prima di lasciarci vi ricordo che potete seguire Smart City anche dal podcast, dove trovate la versione più lunga e con qualche informazione in più. Questo è davvero tutto, appuntamento a domani. Buona serata.